Terzo anello ad alta voce. Lord Jim di Joseph Conrad. Tutto comincia con la spericolata impresa di un uomo di nome Brown, che rubò con grande maestria una goletta spagnola in una piccola baia vicino a Zamboanga. Finché non trovai quest'uomo, le mie informazioni rimasero incomplete, ma il caso volle che mi imbattessi in lui in modo del tutto inatteso, poche ore prima che la sua arrogante anima gli uscisse dal corpo per volare nell'aldilà. Fortunatamente era ancora in condizioni di parlare e aderì volentieri al mio invito, pur fra un accesso e l'altro dell'asma che lo soffocava, e durante il racconto il suo corpo tormentato era scosso da una gioia maligna al semplice pensiero di Jim. Egli esultava all'idea di averla fatta pagare a quello stupido presuntuoso, dopo tutto. Era orgoglioso della propria azione. Dovetti sostenere il fiero sguardo di quegli occhi infossati e circondati di rughe se volevo sapere. E così mi assoggettai a quel colloquio, riflettendo come certe forme di malvagità, nate da un forte egoismo e aggravate dalle resistenze, siano affini alla pazzia, e pur se lacerano l'anima, danno al corpo un vigore artificioso. L'episodio rivela anche profondità insospettate di scaltrezza nel miserabile Cornelius, spinto infallibilmente sulla via della vendetta come da una sottile ispirazione, da un odio abietto e implacabile. Mi bastò posare gli occhi su di lui per vedere che razza di stupido era. Ansimò l'agonizzante Brown. Un uomo quello? Accidenti, non era che un fantoccio. Come se non avesse potuto dire subito: «Giù le mani dal mio bottino!» Che lo pigli un accidente. Questo sarebbe stato un parlare da uomo. Al diavolo la sua anima superiore. Ero lì praticamente nelle sue mani. Ma non aveva il fegato di farmi fuori, proprio no. Se penso che mi ha lasciato andare come se non valesse un fico secco. Brown faticava terribilmente a respirare. Impostore, lasciarmi andare. E così sono stato io a far fuori lui, dopo tutto. Soffocò di nuovo. Ho paura che stavolta non me la caverò, ma almeno morirò tranquillo. Ehi, tu, non so il tuo nome. Ti darei 5 sterline se le avessi per sapere. Com'è vero che mi chiamo Brown? Fece un orribile sogghigno. Brown, il gentiluomo. Disse tutto ciò fra profondi rantoli, fissandomi con i suoi occhi gialli scavati in quella lunga e devastata faccia bruna. Agitò il braccio sinistro. Una stopposa barba sale e pepe gli arrivava quasi al grembo. Una sporca e lacera coperta gli copriva le gambe. L'avevo scovato a Bangkok. Mentre mi parlava in quella misera catapecchia, lottando, per così dire, per ottenere ancora un minuto di vita, la siamese, una donna dalla faccia torbida e volgare che stava con le gambe scoperte, sedeva in un angolo buio a masticare imperturbabile il suo betel. Di tanto in tanto si alzava per cacciare qualche gallina fuori dalla porta e quando camminava faceva vibrare tutta la capanna. Un brutto bambino giallo, nudo e col ventre sporgente come un piccolo dio pagano, era ritto ai piedi del giaciglio con un dito in bocca, perso in una calma e profonda contemplazione del morente. Questi parlava in preda a una febbrile eccitazione, ma a metà delle frasi era come afferrato alla gola da una mano invisibile e mi guardava muto con un'espressione dubbiosa e angosciata. Sembrava temere che mi stancassi di aspettare e che me ne andassi, senza permettergli di finire il racconto e di dare sfogo alla sua esultanza. Credo che sia morto durante la notte, ma non c'era più nulla di nuovo allora che potessi apprendere da lui. Ma per il momento abbandoniamo Brown. 8 mesi prima, arrivando a Samarang, andai come al solito a trovare Stein. Sul lato della casa che si affacciava sul giardino, un malese che era sulla veranda mi salutò timidamente. Ricordai di averlo visto a Patusan, la casa di Jim, fra gli altri bugi che solevano andare da lui la sera a parlare per ore e ore delle loro reminiscenze di guerra e a discutere affari di Stato. Jim me lo aveva indicato una volta come un piccolo rispettabile commerciante che possedeva un modesto naviglio in grado di prendere il mare e che si era dimostrato uno dei migliori nell'assalto alla palizzata. Non fui molto sorpreso di vederlo, dal momento che era naturale che un mercante di Patusan, avventuratosi fino a Samarang, andasse a far visita a Stein. Restituì il saluto e proseguì. Alla porta della camera di Stein mi imbattei in un altro malese che riconobbi per Tambitam. Gli chiesi subito che cosa facesse lì. Mi venne in mente che Jim fosse venuto in visita. Confesso che a quel pensiero provai felicità ed emozione. Tambitam guardava come se non sapesse che dire. «È dentro Tuan Jim?» chiesi impaziente. «No», farfugliò lui, chinando per un istante la testa, e quindi con il viso improvvisamente serio. «Non ha voluto combattere. Non ha voluto combattere», ripeté 2 volte. Poiché sembrava incapace di dire altro, lo spinsi da parte ed entrai. Stein, alto e curvo, era in piedi, in mezzo alla stanza, solo, fra le teche delle farfalle. «Ah, è lei, amico mio?» disse tristemente, scrutandomi attraverso gli occhiali. Indossava un giaccone grigiastro di alpaca, sbottonato, che gli arrivava alle ginocchia. Aveva in testa un cappello di Panama e sulle sue guance si notavano rughe profonde. «Che cosa c'è adesso?» chiesi nervosamente. «Ho visto Tambitam. Venga a vedere la ragazza, venga a vedere la ragazza!» «È qui», disse con una alacrità forzata. Cercai di trattenerlo, ma nella sua ferma cortesia non volle prestare ascolto alle mie incalzanti domande. «È qui, è qui!» ripeteva molto turbato. «Sono arrivati 2 giorni fa. Un vecchio come me, straniero, non può far molto. Venga da questa parte. I giovani cuori sono inesorabili.» Vedi che era sconvolto. «In loro c'è una grande forza vitale, la crudele forza della vita.» Parlava balbettando mentre mi accompagnava per la casa. Lo seguivo perso in cupe e furiose congetture. Alla porta del salotto mi sbarrò la strada. «Egli l'amava molto», disse con aria interrogativa. E io mi limitai ad annuire, assalito da una delusione così cocente che non osavo parlare. «È spaventoso», mormorò. «La fanciulla non mi capisce. Io sono solo un vecchio strambo. Forse lei... lei la conosce, le parli. Non possiamo lasciare le cose così. Le dica di perdonarlo. È stato orribile.» «Senza dubbio», dissi, esasperato perché continuava a tenermi all'oscuro. «Ma lei lo ha perdonato?» Mi lanciò un'occhiata bizzarra. «Sentirà», disse, e aperta la porta, mi spinse dentro risolutamente. «Lei conosce la grande casa di Stein e le 2 immense sale di ricevimento, disabitate, inabitabili, pulite, piene di solitudine e di oggetti scintillanti, che sembrano non essere mai state guardate da occhio umano, rimangono fresche anche nei giorni più caldi, ed entrandovi si ha l'impressione di penetrare in una grotta sotterranea ripassata con acqua e ramazza. Dopo averne attraversata una, vidi la ragazza seduta nell'altra, all'estremità di un grande tavolo di mogano, su cui appoggiava la testa, il volto nascosto fra le braccia. Il pavimento a cera la rifletteva indistintamente, come se fosse stato una superficie di acqua ghiacciata. Le imposte di canna di Malacca erano abbassate, e quella strana oscurità verdastra, formata dal fogliame degli alberi all'esterno, era investita a raffiche da un forte vento che faceva oscillare i lunghi tendaggi delle finestre e delle porte. La sua bianca figura pareva plasmata nella neve. Al di sopra della sua testa i cristalli di un grande lampadario, simili a ghiaccioli lucenti, crepitavano con un rumore secco. Ella alzò lo sguardo e mi osservò mentre mi avvicinavo. Provai un brivido, come se quelle stanze immense fossero state la dimora della disperazione. Mi riconobbe subito e non appena mi fermai a guardarla mi disse quietamente: «Mi ha abbandonata, come fate sempre voi per i vostri fini». Aveva una faccia tesa. Tutto il calore della vita sembrava essersi ritirato in qualche punto inaccessibile del suo petto. Sarebbe stato facile morire con lui, proseguì, e fece un lieve gesto di stanchezza, come se avesse rinunciato a capire qualcosa di incomprensibile. Lui non volle, era come cieco. Eppure ero io che gli parlavo, io che stavo in piedi davanti a lui. Era me che lui continuò a guardare per tutto quel tempo. Ah, siete crudeli, traditori, senza verità, senza pietà. Che cosa vi rende così malvagi? Oppure siete tutti pazzi? Le presi la mano. Non ebbe alcuna reazione e quando la lasciai andare il braccio le ricadde inerte verso terra. Quell'indifferenza più terribile delle lacrime, delle grida e dei rimproveri sembrava sfidare persino il tempo e qualsiasi consolazione. Si aveva l'impressione che nulla di quanto si poteva dire sarebbe arrivato al cuore di quel dolore muto e paralizzante. Stein aveva detto: «Sentirà». E io sentii tutto. Ascoltando con meraviglia e sbigottimento le parole che esprimevano quell'irremovibile stanchezza. Ella non riusciva ad afferrare il vero senso di ciò che mi diceva e il suo risentimento mi riempiva di pietà per lei e per lui. Dopo che ebbe finito di parlare, rimasi come inchiodato sul posto. Guardava con occhi duri, appoggiata su di un braccio, mentre il vento soffiava impetuoso e i cristalli continuavano a urtarsi come un rumore secco in quella tetra luce verdastra. Ripeteva in un sussurro, come se parlasse fra sé, e tuttavia mi guardava. Poteva vedere la mia faccia, udire la mia voce, sentire il mio dolore. Quando mi sedevo ai suoi piedi, con la guancia sul suo ginocchio e sulla testa la mano di lui, la maledizione della crudeltà e della pazzia era già in lui, in attesa del giorno propizio. E quel giorno arrivò. E allora, prima che il sole fosse tramontato, egli non fu più in grado di vedermi. Era diventato cieco, sordo e senza pietà, come tutti. Da me non avrà una lacrima. Mai. Mai. Non una sola lacrima. Non voglio. Si allontanò da me come se fossi stato peggiore della morte. Fuggì come se fosse stato spinto da qualcosa di orrendo che aveva visto o udito nel sonno. I suoi occhi immobili parevano cercare disperatamente la forma di un uomo che le era stato strappato via dalle braccia dalla forza di un sogno. Non fece alcun cenno al mio inchino silenzioso. Fui lieto di andarmene. La rivedi quel pomeriggio stesso. Dopo averla lasciata, ero andato in cerca di Stein, che non ero riuscito a trovare in casa. Accompagnato da tormentosi pensieri, camminavo per i giardini, i famosi giardini di Stein, in cui si possono trovare tutte le piante e tutti gli alberi delle piane tropicali. Seguii il corso del ruscello canalizzato e rimasi seduto per parecchio tempo su di una panchina all'ombra, vicino al laghetto ornamentale, dove alcuni uccelli acquatici, dalle ali tarpate, si tuffavano e sguazzavano con gran rumore. Dietro di me il leggero, incessante dondolio dei rami di casuarina mi ricordava lo stormire degli abeti nelle foreste di casa. Questo suono triste e inquieto era un accompagnamento appropriato alle mie meditazioni. Ella aveva detto che un sogno l'aveva spinto lontano da lei. E che cosa si poteva risponderle? Sembrava non esserci perdono per tale peccato. E tuttavia, il genere umano stesso, nel suo procedere alla cieca, non è forse spinto dal sogno della propria grandezza e del proprio potere lungo i sentieri bui di un'eccessiva crudeltà e di un'eccessiva devozione? E che cos'è, dopo tutto, la ricerca della verità? Thank you. Quando mi alzai per tornare verso la casa, scorsi attraverso il fogliame il giaccone grigiastro di Stein. Quindi, a una svolta del sentiero, me lo trovai di fronte. Camminava al fianco della ragazza. La piccola mano di lei era posata sul suo avambraccio e sotto la larga tesa piatta del cappello di Panama che copriva i suoi capelli grigi, il viso di Stein si piegava paternamente su di lei con un'espressione piena di deferente compassione. Io mi spostai. Ma esse si fermarono volgendosi verso di me. Stein teneva lo sguardo al suolo. Al suo braccio la ragazza, esile ma eretta, fissava cupamente dietro di me con i suoi occhi neri, limpidi, immobili. Terribile. Terribile. Che si può fare? Sembrava invocare, lui, il mio aiuto. Ma io avvertivo un impulso più forte per la giovinezza di lei, per i lunghi giorni sospesi sopra il suo capo, e all'improvviso, anche se mi rendevo conto che le parole erano superflue, mi accorsi che avevo raccolto l'appello che egli aveva lanciato per lei. «Deve perdonarlo», conclusi, e la mia voce sembrava sorda, persa in un'immensità muta e indifferente. «Abbiamo tutti bisogno di perdono», aggiunsi dopo un po'. «Che cosa ho fatto io?» chiese lei, muovendo appena le labbra. «Ha sempre diffidato di lui», dissi. «Era come gli altri», rispose lei, pronunciando lentamente le parole. «Non era come gli altri», protestai, ma ella continuò con lo stesso tono neutro. «Era falso». «No, no, no, mia povera bambina», proruppe all'improvviso Stein, accarezzandole la mano appoggiata passivamente sulla sua manica. «No, no, non era falso, era sincero, sincero, sincero», cercò il suo viso impietrito. «Lei non capisce. Perché non capisce? Terribile!» disse rivolto a me. «Un giorno dovrà capire. Glielo spiegherà lei?» gli chiesi, guardandolo intensamente. Ripresero a camminare. Li osservai. I neri capelli di lei dondolavano sciolti e la sua veste strisciava sul sentiero. Procedeva diritta e leggera al fianco di quell'uomo alto, dalle cui spalle curve il lungo e informe giaccone cadeva in pieghe perpendicolari e i cui piedi si muovevano con lentezza. Scomparvero, al di là di quel boschetto dove crescono insieme, lo ricorderà, 16 diversi tipi di bambù, tutti riconoscibili all'occhio dell'esperto. Da parte mia, ero affascinato dalla grazia squisita e dalla bellezza di quelle forme armoniose sormontate da foglie a punta e da cime piumate, la cui leggerezza, il cui vigore, il cui incanto sono distinti e netti come la voce di quella lussureggiante natura che non conosce turbamento. Ricordo di essere rimasto a guardarle per parecchio tempo, quasi volessi prolungare l'ascolto di quel consolante sussurro. Il cielo era di un color grigio perla. Era uno di quei giorni coperti così rari ai tropici in cui nella mente si affollano i ricordi, ricordi di altri lidi, di altri volti. Ritornai in città quel pomeriggio stesso, portando con me Tam Bitam e l'altro malese, sulla cui imbarcazione erano fuggiti nello sbigottimento, nella paura e nella tristezza della tragedia. Quel colpo pareva avere modificato la loro natura, aveva trasformato in pietra il temperamento appassionato di lei e reso quasi loquace lo scontroso e taciturno Tam Bitam. La sua burbanza era diventata smarrita umiltà, come se in un momento supremo avesse visto l'impotenza di un infallibile incantesimo. Il mercante Buge, un uomo timido ed esitante, fu molto preciso nel poco che aveva da dire. Entrambi erano stati evidentemente schiacciati da uno stupore profondo e inesprimibile, dal senso di un mistero insondabile. A questo punto la lettera vera e propria terminava con la firma di Marlo. Il lettore privilegiato sistemò la lampada e nella sua solitudine al di sopra del mare di tetti della città, come il guardiano di un faro che si erge sul mare, si dispose a leggere quelle pagine.